BPM Pro. Rappresento l'essenza dell'hardcore. Qui c'è il pop non stop, chiuso nel laboratorio, coi neuroni sotto shock. Non sincero, rassegnato al vero. Sette da costante zero, che mi appare sotto score. J'adore gli stronzi che si affogano in discorsi. Intanto sono sordo, beato te che te li ascolti. J'adore lo stronzo che mi parla di contratto. Intanto sono sordo, vedo e basta e vedo un cazzo. Bello, io non mi vendo il culo. E qui se faccio tutto questo è per tirare sul bordello che distrugga questo inferno. Un fardello sulla spalla che mi gravi. Se mi chiudo, sta provetta un altro beat che ti contamina. Ricarica, muta fino a perdere l'identità dell'anima. Poi spara un altro colpo su sta lancia biomeccanica. Tramutala in codici cazzotti sopra il tuo 40 pollici e sta messa dio mediatica. Ho il sangue che mi bolle giusto 89 gradi. Mentre urlo sopra un palco per cui siamo tutti schiavi. Infami, restatevi seduti e state bravi. Non mi offendo, no, datemi in paese siamo pari. Ho il sangue che mi bolle giusto 89 gradi. Mentre urlo sopra un palco per cui siamo tutti schiavi. Infami, restatevi seduti e state bravi. Non mi offendo, no, datemi in paese siamo pari. E l'Italia zossa fari, lavoriamo come cani. Se in tela abbiamo le oche, in governo anche i maiali. Noi esclusi da ogni razza di animali sopra un palco. Siamo gli esemplari rari, siamo un branco di marziani. Chi corre troppi rischi, chi prende troppi fischi. Qui noto la presenza di un po' troppi grandi artisti. Tristi, stronzo, fammi pure un altro dissing. Intanto io nel mentre ho già prodotto 4 dischi. Mi mischi sta roba con il peggio e poi finisci a fare chiacchiere da stare insieme a 4 amici al bar. Tempo l'hai sprecato ma dal cielo Dio t'assiste. Mister, l'orgoglio l'hai comprato dentro un blister. Viste le tue mete da riviste, di veline a riviste. Le tue in sound system, le mie malviste. Ho il sangue che mi bolle, Mel non muore. Passo e chiudo dalla stazione punto 89. Vaffanculo.